cause delle infezioni. Vi sono diversi virus e batteri che possono provocare infezioni nell'uomo. Alcuni esempi di infezioni virali sono l'influenza, il raffreddore, l'epatite, il morbillo. Alcuni esempi di infezioni batteriche sono il tifo, la pertosse, la meningite meningococcica e la polmonite meningococcica. Le infezioni possono essere trasmesse per via aerea, mediante il passaggio di goccioline di saliva o di secrezioni di persone con l'infezione in corso, ad esempio raffreddore, influenza, faringite e polmonite. Per via alimentare, tramite l'ingestione di acqua o alimenti contaminati, ad esempio epatite A, salmonellosi. Per via sessuale, attraverso il contatto delle mucose con le secrezioni genitali o con il sangue di persone con l'infezione in forma attiva, ad esempio sifilide, gonorrea, IF, condilomi. Per via parenterale, mediante la puntura con aghi o strumentazioni infetti, epatite B e C, attraverso la puntura di insetti o il morso di animali, ad esempio virus West Nile, rabbia, peste. La presenza di un indebolimento del sistema di difesa dell'organismo, sistema immunitario, come avviene nel caso di malattie congenite, croniche e tumorali, di HIV/AIDS o di cure con farmaci immunosoppressivi, può facilitare le infezioni da virus e batteri e peggiorarne l'andamento.